e adesso 2 king più 2 king fanno 4 king, se la matematica non inganna. Yeah. Uno perché devi pagarsi ancora, mance su mance su mance, pure con il suono lo bacia, tracco tracce su tracce su tracce, stringo forte tutte le ansie con il cuore che piange, che piange. E se per caso ogni problema mio me lo scegliessi, io non avrei niente da dirti, per Dio. Liricamente sono straripato, di questo flow tu non mi pari in grado. Se ridubbi che il tape tu l'abbia già rippato, sei solo un fake se l'hai scaricato. Ogni euro sradicato l'ho già ridato, ancora recco barricato come a Stalingrado. Ogni soldo con il rap un soldo faticato, tu sei patinato perché sei ammanicato. Madman al verde, rapper che non s'arrende come allende. Non so ciò che m'attende, so solo di promesse che nessuno mantenne. Per questo che modrizzo le antenne, analizzo l'ambiente per non pagare il pizzo ad un tizio più ambiente. Quindi giro l'Italia, ci di più gadget, low budget, ti faccio le mocca. In mezzo a tutte ste facce gratis, è low budget, ma tu non sai quanto lo paghi. Venduto la tua anima a Cagliostro, pure a basso costo. Non te la pia con media, invece tutto a posto. Fottuto, stronzo, te prego. 100 anni che lavoro come un negro, che trattengo il tempo dietro. Smonto realtà parallele tra casse rullante, posso soltanto vedere da un mondo distante. Ambulante, rap suona per due spicci. Dilettante, rap pieno di capricci, pieno di signori con gli impicci, imperatori posticci. Fanculo rude boy, pom the shit. Vecchia nuova, primo metti gemi, no problemi, basta avere qualcosa a cui tieni, un paio di coglioni pieni. Emi, scemi, suoni, soni, gadget, la mia donna veste nero con la faccia, mi spiace. Sto fuori per il denaro, ho un botto di sogni che costano caro. Ho litro di flow sopra queste tracce, ve li porto low budget, low budget. Sto fuori per il denaro, ho un botto di sogni che costano caro. Ho litro di flow sopra queste tracce, ve li porto low budget, low budget. Quando nel posto come Frida Kahlo, non porto l'inchiostro, polveri da sparo. Ditemi che il vostro rapper italiano preferito e viene ferito se con la rima sparo in prima linea. Chiaro se con non ci capiamo, è vero il flow lo caghiamo però non ci cambiamo. Ascolta e richiamo, tritrichiamo, se sopra il ritmo ci candiamo. Se vuoi che ora suono, se come devi pagare, se non vuoi che te le suono, uguale mi devi pagare. È da un po' che suono, mi pare che me lo merito. Studio un flow tipo medico senza dare l'esame. E quando calo le bombe a mano, per borderline dell'hip hop italiano. E il fatto è che siamo in troppi, tagliamo, ma più spacchiamo, meno soldi abbiamo. Nessun aggancio, nada, pieni ti faccio strada. Quale corda del privé, qua c'è una staccionata. Ogni mossa è ragionata, se no finisce tutto e mi va puttana la giocata. Vuoi colpace? Ogni mossa è low budget. Con doppia MC prendiamo tutto da qua. E so che non puoi capire quanto è brutto pagà. Ci arriverà il giorno in cui non te paga tutto papà. Heavy metal, il suono che credevi rap è roccia. Quella che credevi creda, pretendi che ti creda quando dici che non hai la moneta. Ma a casa c'hai più Nike di un maratoneta. Noi siamo fuori strada, tu stai sul fuori strada. Noi le peroni in casa, tu superi cuori e Prada. Vieni contro i lupi con i voti ossuti, sul soffitto contro i buchi, sempre rap senza contributi. Sto fuori per il denaro, ho un botto di sogni che costano caro. Ho litro di flow sopra queste tracce, ve li porto low budget, low budget. Sto fuori per il denaro, ho un botto di sogni che costano caro. Ho litro di flow sopra queste tracce, ve li porto low budget, low budget. Uno perché devi pagarsi ancora, mance su mance su mance, pure con il suono lo bacia, tracco tracce su tracce su tracce, stringo forte tutte le ansie con il cuore che piange, che piange. E se per caso ogni problema mio me lo scegliessi, io non avrei niente da dirti, per Dio.